Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato allo scontro finale fra bene e male, Dio e Satana. Vi segnaliamo che la versione integrale andrà in onda su History Channel domani alle 21. L'idea di un'eterna lotta fra bene e male cattura da sempre l'immaginazione umana e l'interesse degli studiosi. Per i credenti, l'umanità non può sfuggire a questa definitiva resa dei conti. Si tratta del giorno dell'Apocalisse. In un istante, l'universo, insieme a ciò che esiste, finirà. Ma in che modo? Per millenni su questo si sono interrogati i fedeli delle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo. Secondo alcuni credenti, alluvioni, carestie e pestilenze sono le chiare manifestazioni di una battaglia ormai imminente tra luce ed oscurità. Molti ritengono che questo catastrofico epilogo della battaglia tra Dio e Satana si profili all'orizzonte e che comporterà la distruzione di tutto ciò che conosciamo. Il fulcro della tradizione apocalittica è la contesa per l'anima umana. La fede in Dio dei credenti viene messa alla prova e Satana è deciso a distruggere questa santa alleanza. L'idea così radicata di un finale apocalittico emerge dagli antichi testi con descrizioni vivide e oscuri presagi, rivelati ed interpretati nel corso del tempo. Paul Boyer, professore di storia all'Università del Wisconsin. Nella visione prefigurata dalla letteratura apocalittica, ad un certo punto questa sfida culminerà con la fine della storia in un crescendo di conflitti. Molti pensano che Apocalisse significhi solo catastrofe o disastro, ma in realtà è una parola greca che significa rivelazione di una verità o conoscenza nascosta. E si tratta di un genere letterario nato nell'antico Medio Oriente. È questo il vero significato del termine. Nell'arco dei secoli il concetto di Apocalisse si è evoluto e ha stimolato un'intensa ricerca delle risposte definitive a queste annose domande. Chi uscirà vincitore? E quali saranno le conseguenze per il mondo? Credenti ed accademici hanno setacciato moltissime fonti per scovare degli indizi. I primi accenni a questa eterna battaglia tra bene e male risalgono all'incirca al primo secolo d.C. Si trovano in un libro chiamato L'Apocalisse di Ezra. Jonathan Kirsch, autore del libro A History of the End of the World. Nella religione emerge un nuovo, rivoluzionario concetto che è presente sia nelle scritture islamiche sia in quelle cristiane. Ed è l'idea che la storia sia una manifestazione della volontà divina, che essa abbia un inizio, un centro e una fine. E che tutto si concluderà con una catastrofe. Le tre religioni hanno contribuito in egual misura alla creazione di questa teologia della fine dei giorni. Se è vero che i testi sacri di queste fedi sono fondamentali per comprendere la battaglia tra Dio e Satana, per comprendere appieno questo scontro epico dobbiamo prima esaminare i contendenti. Il primo è universalmente noto come il creatore del cosmo, Dio. Le antiche civiltà, come quelle degli Egizi e dei Sumeri, adorano varie divinità, alcune compassionevoli, altre crudeli, ognuna delle quali governa un aspetto dell'esistenza. Paul Boyer, professore di storia all'Università del Wisconsin. In caso di siccità ci si rivolgeva a un dio, se invece si era circondati dal nemico se ne invocava un altro. Poi, nella Torah, i cinque libri di Mosè, gli ebrei iniziano a descrivere un unico Dio onnipotente. La grande conquista degli antichi ebrei, naturalmente, fu di arrivare al concetto di un unico Dio, un unico essere supremo. Nel VII secolo avanti Cristo, nei testi ebraici scompaiono i riferimenti ad altre divinità. Diventa prevalente il concetto di monoteismo. Gli ebrei credono che il loro Dio onnipotente sia non soltanto amorevole, ma anche severo. Nel libro della Genesi, Dio ricompensa i giusti e punisce i malvagi. Scatena un catastrofico diluvio. Fa scendere una pioggia di fuoco e zolfo sulle città corrotte di Sodoma e Gomorra. E lascia che gli ebrei vaghino nel deserto per 40 anni, tra gli antichi ebrei, la fede in un solo Dio resterà solida. Al contrario, la convinzione che sia all'origine dei mali del mondo non durerà a lungo. Tina Wori, professore di teologia all'Università di Andover. È l'idea di un unico Dio che dispensa ricompense, doni, gioie e dolori. Ma questo è difficile da accettare. Forse quell'unico Dio non è la causa di tutto il male del mondo. Forse all'opera c'è anche un'altra entità. Lentamente, dagli antichi testi, inizia ad affiorare una figura oscura e sinistra. Il termine ebraico è Ha-Satan. Ha-Il, Satan avversario. È uno di questi funzionari celesti di basso rango, il cui compito è di fare la spola tra cielo e terra e riferire al Signore. La costante ascesa al potere di Satana raggiunge il suo picco nel Nuovo Testamento, dove diventa l'artefice ultimo di tutti gli orrori e le tragedie del mondo. Lo sviluppo di Satana permette agli ebrei di adorare un Dio che è solo bene. Richard Freud, professore di studi giudaici. E Satana è l'avversario che si oppone al bene con tutte le forze, che impedisce il raggiungimento di un mondo perfetto. È il grande nemico di un Dio del bene. Tutto è pronto per le schermaglie che condurranno alla resa dei conti definitiva, lo scontro finale per le anime degli uomini e il destino del mondo. Gli antichi testi e le tradizioni di ebrei, cristiani e musulmani non soltanto raccontano le origini della guerra tra Dio e Satana, ma parlano anche di una stessa città che è tra i luoghi terreni più sacri e ambiti del pianeta: Gerusalemme. Gerusalemme è la patria spirituale degli ebrei sin dal X secolo avanti Cristo. Qui sorgeva il loro tempio più sacro. Per i cristiani è il luogo in cui Gesù è stato crocifisso attorno al 34 dell'era volgare e dove regnerà al suo ritorno. Per gli islamici è la città da cui Maometto è asceso al cielo ed è la sede della moschea sacra di Al-Aqsa. Nei vari racconti che riguardano la fine dei giorni della tradizione ebraica, cristiana e islamica, Gerusalemme è sempre presente. È considerata il centro, l'ombelico dell'universo, perché questo non è soltanto il luogo dove tutto ha avuto inizio, ma anche quello dove tutto un giorno finirà. Questa città sacra è anche il luogo che i fedeli ritengono più ambito dal demonio. Per loro, Gerusalemme farà da sfondo all'epica battaglia tra Dio e Satana. Il primo passo per capire l'evoluzione di questo scontro è una serie di manoscritti sepolti millenni prima in un'antica tomba, i rotoli del Mar Morto. Sono opera di una tribù molto religiosa che ammonisce sul crescente potere di Satana e sullo scontro che verrà. I primi accenni all'epica battaglia tra Dio e Satana sono contenuti in alcuni tra i più antichi testi religiosi mai scoperti. I rotoli del Mar Morto, scritti tra il 200 avanti Cristo e il 100 dopo Cristo, vengono rinvenuti in alcune grotte nei pressi del villaggio di Qumran, vicino a Gerico. Si ritiene che siano stati nascosti all'incirca all'epoca della caduta di Gerusalemme, nel 66 dopo Cristo. Sono opera di una devota setta mistica ebraica, gli Esseni. Ancora Richard Freud. Gli Esseni sono il più importante gruppo apocalittico ad emergere da Gerusalemme nel II secolo avanti Cristo. I manoscritti Esseni descrivono alcuni degli eventi che a loro giudizio porteranno alla battaglia finale. Inoltre forniscono alcuni dei concetti che stanno alla base della teologia apocalittica. Gli Esseni lasciano il Tempio di Gerusalemme perché, a loro giudizio, è diventato troppo tollerante verso le altre religioni. Si trasferiscono nel deserto per fondare una comunità più pia. Si dedicano agli studi e accumulano una serie di scritti sacri. Questi documenti, quasi un migliaio, saranno i rotoli del Mar Morto. Custoditi in oscure grotte, verranno riscoperti 2000 anni dopo. Secondo gli Esseni, la battaglia avrà luogo nei pressi di Gerusalemme. e da essa dipenderà il destino del mondo come lo conosciamo. E il loro leader li avrebbe condotti fino a questo scontro apocalittico in cui i figli della luce avrebbero sconfitto i figli dell'oscurità. I manoscritti sono tra i testi religiosi più importanti mai scoperti e consacrano gli Esseni come uno dei primi gruppi a descrivere la resa dei conti tra Dio e Satana. Dai rotoli del Mar Morto emerge l'idea di un esercito di credenti guidato da Dio e un impero del male agli ordini del potente principe delle tenebre, Satana. Il libro della Sapienza, scritto nel primo o nel secondo secolo avanti Cristo, mostra Satana che sfugge all'autorità di Dio, diventando un'autonoma divinità delle tenebre. Ci sono vari testi religiosi che descrivono nel dettaglio la sua rottura con Dio. Il diavolo, insofferente del proprio ruolo di servitore dell'Onnipotente, guida una ribellione contro Dio, ma viene sconfitto e cacciato dal paradiso. L'episodio gli fa guadagnare uno dei suoi tanti nomi. Il libro di Isaia si riferisce a lui come a una stella caduta, Lucifero. Si ribella contro il Signore. Si ribella contro l'intero ordine celeste basato sulla rettitudine. E un terzo degli angeli si unisce a lui. Vengono cacciati dal cielo. Quella caduta degli angeli ribelli è una storia molto drammatica. Ora non sono più fedeli a Dio, ma a Satana, che considerano la loro guida. Nel cristianesimo Satana è considerato un angelo caduto che muove guerra contro il Signore e contro le forze del bene. E ciò spiega l'esistenza del male. I musulmani hanno un nome diverso per queste forze oscure, ma la loro versione della storia riecheggia quella cristiana. Imam Hassan Kazvini, presidente del Centro Islamico d'America. Gli islamici credono che Satana sia stato creato dal fuoco, mentre gli angeli siano stati creati dalla luce. Satana aveva il privilegio di accompagnarsi agli angeli. E quando disobbedì a Dio, lui lo cacciò. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario. Da sempre l'uomo rivolge il suo sguardo al cielo in cerca di risposte sui misteri della vita. Durante questa esperienza è diventato consapevole non soltanto di Dio, ma anche di un'altra potente entità, un essere malvagio. I testi di ebrei, cristiani e musulmani lo chiamano Satana. La lotta dell'uomo contro il male è presente sin dall'inizio dell'Antico Testamento. Il libro della Genesi mostra un serpente tentatore che entra nel giardino dell'Eden. Richard Freud, professore di studi giudaici. Satana è nato nel giardino dell'Eden. Il serpente è la sua manifestazione. Il serpente è diventato il simbolo del male, come poi si è evoluto nella tradizione ebraica. Questa versione del demonio tentatore è consolidata dall'interpretazione islamica. L'abilità di tentatore di Satana viene descritta come una delle sue armi più efficaci nella battaglia per le anime degli uomini. Per molti credenti, il serpente che convince Eva ad assaggiare il frutto dell'albero della conoscenza non è altri che il diavolo all'opera. Nel racconto, Eva convince anche Adamo a mangiare il frutto proibito. Un gesto che Dio non perdona. Da ebrei, cristiani e musulmani, l'atto viene interpretato come il peccato originale e uno dei più grandi trionfi del demonio. L'Onnipotente esilia dal giardino i suoi amati Adamo ed Eva, ma riserva a Satana la sua violenta ira. Secondo i testi antichi, Dio condanna Satana a vivere per sempre nella forma che ha assunto per indurre i due esseri umani al tradimento. Il primo scontro di questa guerra si conclude con la consapevolezza che l'anima umana sarà sempre vulnerabile agli inganni del demonio. Dal momento che Satana è in grado di mutare forma e di trasformarsi, la descrizione del suo aspetto deriva da un insieme di antiche rappresentazioni del male. Tina Uori, professore di teologia all'Università di Andover. Il forcone, per esempio, è il tridente di Poseidone. Il colore rosso deriva da Set, la malvagia divinità egizia. Le corna sono quelle del greco Pan, o del dio cananeo chiamato Abaiu, che presenta corna e coda. Tutti questi diversi elementi, provenienti da altre culture, sono confluiti nel folklore che riguarda Satana. La presunta capacità di Satana di prendere possesso di una persona e di controllarla spinge gli uomini a vedere nel comportamento degli altri, in particolare dei loro nemici, l'opera del demonio. Secondo i credenti, con la cacciata dall'Eden, Satana comincia a esercitare il suo potere sull'umanità, lasciandola in un eterno equilibrio tra bene e male. E non è che l'inizio. Gli antichi testi narrano di come, subito dopo, metterà alla prova uno dei devoti servi del Signore. Dopo il trionfo ottenuto nel giardino dell'Eden, è solo questione di tempo prima che Satana torni ancora una volta a minacciare il rapporto tra Dio e l'uomo. Il libro di Giobbe, nell'Antico Testamento, racconta proprio questa nuova sfida. Questa volta Satana è così sfrontato da non ricorrere a travestimenti. La più gloriosa apparizione di Satana ha inizio nel libro di Giobbe. Si tratta della descrizione più dettagliata di questa figura. Satana cerca ancora una volta di opporsi al Signore, prendendo di mira la sua creatura più amata, l'uomo. E questa volta non si affida alla tentazione, ma al tormento. Il celebre testo biblico racconta che il demonio non si è già trasformato nella potente incarnazione del male. È ancora alle dipendenze di Dio, nelle vesti di una sorta di pubblico ministero celeste. Satana deve scovare eventuali debolezze, individuando gli esseri umani che potrebbero allontanarsi dalla fede di Dio. Il demonio concentra la sua attenzione su uno degli uomini di cui Dio è più orgoglioso. Giobbe. Richard Freund, professore di studi giudaici. È una persona molto pia, ha splendidi figli, una bella famiglia. Sembra possedere tutto ciò che si possa desiderare, finché non appare Satana. E così il diavolo sfida l'Onnipotente, chiedendogli di poter mettere alla prova la fede di Giobbe. Il Signore permette a Satana di fare tutto ciò che crede con quello che appartiene a Giobbe. Egli ha 7 figli, 3 figlie, una serie di servitori e più di 10.000 capi di bestiame. Ma non gli potrà torcere un capello. La Bibbia racconta che il diavolo ricorre ad ogni mezzo pur di mettere Giobbe alla prova. Non gli risparmierà le sofferenze più atroci pur di farlo cedere. Alla fine, la devozione di Giobbe comincia a vacillare. E ben presto l'uomo rivolge a Dio una domanda. Perché mi fai soffrire in questo modo? Alla fine, esasperato, si rivolge al Signore e gli chiede: perché mi accadono queste cose? Il Signore gli risponde dicendogli: sei un essere umano e la tua comprensione è limitata. Non potrai mai capire il bene, il male e il mondo intero. Puoi soltanto vivere una vita retta. Ora vai a pregare. Fai del bene. Il libro di Giobbe ci spiega cosa possiamo fare. Giobbe si rende subito conto del proprio errore. Chiede perdono e sopravvive alla durissima prova. La ricompensa divina non si fa attendere. Il tentativo di Satana di spezzare il legame tra Dio e il suo più devoto seguace è fallito. Nel corso dei millenni, Satana è stato descritto come il tentatore degli uomini, che in questo modo cerca di sfidare Dio e di spingerlo alla battaglia finale. C'è un esempio che è considerato il più clamoroso. È il testo sacro che narra di una fine dei giorni imminente. L'Apocalisse di Giovanni. Elaine Pagels, professore di teologia all'Università di Princeton. L'Apocalisse di Giovanni è uno dei testi più insoliti della Bibbia cristiana. Non contiene precetti morali, non dispensa pillole di saggezza. È una sequenza di sogni ed incubi. Il destinatario di queste visioni è Giovanni di Patmos. Probabilmente l'autore scrive questa sua opera sulla fine dei giorni attorno al 70 d.C. All'epoca è in esilio. È fuggito da una Gerusalemme sconvolta dalla guerra. Nell'Apocalisse di Giovanni viene espresso il desiderio di vendetta nei confronti degli oppressori. Il libro della Rivelazione, come spesso viene chiamato questo testo, spiega per la prima volta la profezia della battaglia finale tra Dio e Satana. Si legge che il Signore farà pagare al diavolo la sua malvagità. Dio tornerà per vendicare la sua gente, il suo popolo e il suo luogo sacro. E lo farà quando Gesù, il suo Messia, tornerà con le armate celesti. I libri di Giovanni combinano i segni ritrovati nei testi giudaici con le profezie sulla fine del mondo di Gesù. L'annuncio della collera che si abbatterà sulla terra aiuterà l'umanità a sopravvivere a un Satana giunto al massimo della sua potenza. L'Apocalisse comincia con Dio sul suo trono in cielo. Accanto al trono c'è un rotolo chiuso con 7 sigilli. Per la tradizione ebraica, il 7 è un numero sacro. Per aprire i rotoli, l'angelo deve trovare chi ne è degno. Questa, a quanto pare, è un'altra immagine di Gesù ed è quella dell'agnello immolato con 7 occhi. È una rappresentazione molto strana. Poiché l'agnello è stato massacrato, è degno di ricevere il libro, spezzare i sigilli e fare profezie sul futuro. La profezia si rivela con immagini altrettanto bizzarre. I presagi della battaglia che verrà. Ogni volta che un sigillo viene spezzato, si spalanca un nuovo violento scenario. Si vedono una serie di visioni celesti, a cominciare dai 4 cavalieri dell'Apocalisse. E tutte arrivano accompagnate da sventure che si abbattono sulla terra. Un cavallo rosso porta la guerra, uno nero la carestia e uno verde la morte. I fedeli ritengono che un cavallo bianco rappresenti l'arrivo di un capo malvagio, un complice di Satana. La rottura del 5° sigillo vede i martiri cristiani radunarsi attorno al trono del Signore per chiedergli di vendicare le azioni malvagie compiute da Satana nel corso della storia dell'uomo. Sono persone che sono state uccise, massacrate a causa della loro fede in Gesù e chiedono: Dio, per quanto ancora? Quanto tempo dobbiamo aspettare prima che tu ci vendichi? Le rotture del 6° e del 7° sigillo portano terribili cataclismi. E non è che il principio della collera divina. Il Signore invia 7 angeli e man mano che suonano le rispettive trombe scatenano nuovi tormenti. A loro fanno seguito altri 7 angeli con 7 coppe che contengono nuovi orrori per l'umanità. La 7ª coppa scatena un ultimo terremoto, il più grande che si sia mai visto. Il mondo finirà nel caos e i fedeli riconosceranno in questi segni l'approssimarsi della fine dei giorni. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domani alle 21 col titolo Dio contro Satana, lo scontro finale. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.